Mayday 2007 w Gadu Radio. Giuseppe Ottaviani live. Mayday 2007 w Gadu Radio. Giuseppe Ottaviani live. Day 2007 Gadu Radio. Giuseppe Ottaviani live. tylko w Gadu Radio. Mayday 2007 na żywo.